Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go-getter. She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold type. I got faith in your baby. I got faith in you now. And you've been such a, such a good friend to me. Oh, God, I love you so high. I met you, hallelujah. I got faith. Brexit, accordo sul divorzio, garantiti i diritti dei cittadini europei, ora il via ai negoziati, 10 mesi di trattative, intesa Londra-Bruxelles sui conti. Corriere della Sera. Fascisti, un italiano su due ha paura, così apre la Repubblica, sondaggio di Repubblica. Renzi scende, il PD scende al 25%, e poi appunto la questione dei fascisti. Ma la foto è invece su una manifestazione del Sinn Féin contro la Brexit a Belfast in Irlanda del Nord. Mai si arrende, la Brexit soft ci cambia così. Anche il Sole 24 Ore titola sulla Brexit. Su Brexit c'è il primo accordo, ora parola ai 27 con il sì via alla fase 2 del negoziato sul partenariato tra l'Europa e la Gran Bretagna. Invece La Stampa, terzo argomento, titola così: così Mosca aiuta Grillo e Salvini, ingerenze russe, vertice Gentiloni Alfano dopo la denuncia di Biden, parla Carpenter, consigliere di Obama, a rischio la trasparenza delle elezioni. Buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno e buon sabato da Carlo Gabardini. Oh, quindi giornali in ordine sparso oggi con la Brexit un po' da tutte le parti, la Brexit che spopola, potremmo dire. E poi naturalmente ancora la questione Trump. Più che la Brexit, la buona Brexit, buona per l'Europa. In realtà buona per l'Europa, tutti danno l'Europa stravincente, però ricordiamo che in realtà non sono ancora chiusi i trattati. In questa fase sicuramente, insomma, si parla di un assegno dai 40 ai 60 miliardi che Londra deve pagare per il divorzio, e la questione dei confini con l'Irlanda, che pare che non ci saranno confini, però non è ancora chiusa. Abbiamo ancora una ventina di mesi, credo, prima di chiuderla. L'altro argomento riguarda sempre Trump, Gerusalemme capitale, l'Italia dice no a Trump, scrive il Corriere della Sera a centro pagina. Ancora una giornata di tensione a Gerusalemme, migliaia di palestinesi hanno manifestato sulla spianata delle moschee, scontri in Cisgiordania, morti due palestinesi a Gaza. All'ONU, 5 paesi europei, tra cui l'Italia e la Francia, si sono espressi contro Trump. I paesi sono Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna e Svezia. Invece allora, il Fatto Quotidiano sì, ha ma questa un... però ricordiamolo, non è una buona notizia, non è una rassegna stampa, ma è una caccia alle buone notizie, una caccia al tesoro. Certo, perché certo. Sennò sembra che dice, ma perché? Beh, sia i titoli, perché sennò sembra che siano tutte buone notizie, e onestamente l'inizio dell'intifada di nuovo a Gerusalemme non è fra le buone notizie. Pensavo ovviamente qualcosa però di meglio. Però dobbiamo darla. Invece su Il Fatto Quotidiano, che come spesso si occupa d'altro, si occupa di un'inchiesta su uno del PD per peculato, Palazzi, e in realtà però c'è un lungo editoriale di Marco Travaglio sulla questione delle fake news, che è un altro dei titoli che c'è su molti giornali, ovvero la questione che Joe Biden, ex vicepresidente degli Stati Uniti, ha portato ad esempio l'Italia come nuovo luogo di scontro della politica di Putin di inventare fake news. Mm-hmm. E Travaglio lungamente addirittura dice che è una follia che esistano le fake news inventate da Putin, perché dice che ovviamente fa dell'ironia dicendo in Italia il referendum l'ha vinto, l'ha perso Renzi per le fake news in cirillico, come se stessimo parlando di notizie. Forse bisogna spiegare a Travaglio Carvaglio che le fake news sono scritte in lingua, nel senso che sono stati trovati 17.000 account di Twitter che parlavano contro la Clinton, ovviamente parlavano in inglese, quindi di ridurre il problema così a un giochino mi sembra un po' il modo del Fatto Quotidiano per annullare questa questione delle fake news che è molto grave. Allora, vuoi qualcosa sulle fake news? Qualcosa sulle fake news? Ce l'ho. È l'intervista a Carpenter, vice assistente segretario alla difesa per la Russia durante il governo Obama, che dice cose impegnative su questo. Prima però vogliamo sentire la rassegna stampa on the road di oggi, sentiamo cosa si aspettano i lettori dai giornali di oggi in edicola. Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo, pronti come ogni sabato per la nostra rassegna stampa on the road. Come dovrebbe essere? Che notizie dovrebbe contenere il giornale che vorrebbe? Dovrebbe essere come una bella colazione che ti risveglia a seconda delle passioni che uno ha. A me se ci fosse una splendida notizia che il Cesena viene in Serie A, ecco, sarei contentissimo di prima mattina. Perché finalmente andiamo a votare con una maggioranza che sarà definitiva. Che notizie dovrebbe contenere il giornale che vorrebbe? Cioè, notizie d'attualità ma raccontando la verità. Questa settimana c'è stata una notizia che l'ha colpita in particolare. Ha colpito la mossa che ha fatto Trump di proclamare Gerusalemme la capitale della cosa e tutto quello che si sta muovendo attorno, che basti così poco per destabilizzare mezzo mondo. La pazzia di Trump, cioè uno non può improvvisamente stabilire che Gerusalemme diventa la capitale, sta scatenando un caos. Dybala che ha il esaurimento nervoso. Vabbè signore, per me è un problema, sono juventino. Credo che il giornale dovrebbe essere anche darti uno spirito di andare avanti, di migliorare. No, Dybala che ha l'esaurimento nervoso mi mancava, devo dire. Mi manca anche tra l'altro la Gazzetta dello Sport stamattina, non so perché non ce l'abbiamo. Perché stavi cercando se il Cesena per caso nottetempo è andato in Serie A. Mi è piaciuto molto quello che dice la notizia che mi piacerebbe leggere, il Cesena in Serie A. Però bello l'ultimo che chiude dicendo lo spirito di andare avanti, che forse è un po' quello che facciamo noi, andando proviamo a cercare o buone notizie, o meglio, più che buone notizie che spesso sono un po' più inutili, è un buon modo per cercare di risolvere delle notizie apparentemente cattive. Allora, però, una buona notizia ce l'ho per i fedeli e per i seguaci di Papa Francesco. Il giornale a centro pagina, titolo principale, dice, e soprattutto per quelli che sono stati in pellegrinaggio a Medjugorje, perché sappiatelo, è stata riconosciuta a Medjugorje, l'inviato del Papa annuncia da oggi culto autorizzato, via ai pellegrinaggi ufficiali, così Francesco si è convertito, svolta storica, secondo il giornale. Non abbiamo altri per chi è stato a Medjugorje, va bene anche senza l'affermazione del Papa, però fa anche ridere su Il Giornale sempre il fatto che nel momento in cui tutti gli altri giornali parlano del problema dei neofascisti, dei neonazisti che stanno tornando, invece loro dicono bombe, ferite e silenzi, perché il terrore rosso fa più paura dei fascisti, e all'interno si occupano lungamente del fatto che Sofri è stato trattato meglio di Dell'Utri, che è in carcere. Vorremmo ricordare al giornale che Dell'Utri è in carcere per mafia, che è una cosa un po' diversa. 800 24 00 24, vi aspettiamo cari ascoltatori per stare con noi questa mattina fino alle 9. E poi insomma lo ricordavi tu, guerra di opinioni tra il giornale Repubblica, che invece dice fascisti, un italiano su due ha paura, e noi vogliamo chiedervi questa onda nera se sta veramente arrivando, ma soprattutto vogliamo chiedervi di aiutarci. Ci dobbiamo preparare perché sicuramente a Natale ci saranno discussioni con i nostri amici e parenti, ci sarà il nostalgico del ventennio, c'è sempre, si stava meglio quando si stava peggio e via giù così tutti in galera o anche peggio. Ci vuole l'uomo forte, abbiamo bisogno di voi ascoltatori, argomenti, cioè il fantastico mondo la deriva. Però i treni arrivavano in orario, che quando si arriva lì allora si inizia capire. Cosa diciamo allo zio che incita a tornare ai metodi del ventennio? 800 24 00 24. Abbiamo bisogno di voi questa mattina. E poi giochiamo anche oggi e qui alleggeriamo, no? Andiamo in scioltezza perché sapete che forse che l'allenatore dello Shakhtar si è presentato vestito da Zorro in conferenza stampa dopo che la sua squadra ha superato il turno di Champions, aveva promesso di farlo e l'ha fatto, ha mantenuto il fioretto. E queste cose possono capitare, fioretti imbarazzanti, quella volta che è capitato fioretti imbarazzanti, è bellissimo, sembra una trasmissione di qualche canale tipo real time, insomma. Esatto. Fioretti imbarazzanti, abbiamo appena inventato un format, esatto, e raccontateceli quelli che avete fatto, quelli che avete esaudito, diciamo, e quelli che poi appunto in maniera imbarazzante avete dovuto mantenere. Traffico. Well, it's been such a long day. I'm kind of tired, bring a soothing arms my way. My back is aching and my body's sore. Don't stop, honey, you know that I want more. She can make gotcha. Non è una buona notizia, Tari gonfiata, i rimborsi non partono, il Sole 24 Ore purtroppo ci butta giù così, ma questa è la realtà, aspettiamo che partano però. È arrivata la bolletta della Tari di quest'anno e c'è una piccolissima dicitura dove dice che è già stato calcolato un eventuale sovrapprezzo che io dovessi aver pagato in passato, e con questo credo che abbiano chiuso tutto, nel senso che l'ho letto e dico vabbè, allora a posto. Ombre russe sul voto, si muove il governo, il titolo del Secolo XIX. Ombre russe si candida per il super titolo. E invece, prima di andare sulle buone notizie, vi dobbiamo dare una notizia terribile, notizia da urlo. Questa è proprio notizia da urlo. Allora, minigonna imposta alle allieve, scrive il Repubblica. Due magistrati rischiano il posto. Un consigliere di Stato e un PM di Rovigo organizzavano corsi per futuri togati, costringendo a sottoscrivere clausole vessatorie, tra cui indagavano su le ragazze se erano sposate, fidanzati valutati per vedere se le aspiranti magistrate meritassero la fascia A o B, rapporti sentimentali plurimi, due candidate bocciate e una finita in ospedale. Suo padre che dice basta, arriva la denuncia alla procura di Piacenza. Sono stati smascherati questi due magistrati che nella scuola che si chiamava Diritto e Scienza selezionavano le candidate così. Una roba veramente vergognosa, e speriamo che non sia tutto vero quello che scrive anche il Fatto Quotidiano, che ha il titolo in prima pagina: scuola magistrati, ne cade un altro, richieste le tabelle dei fidanzati. Ma proviamo a invertire il corso delle cattive notizie cercando di parlarvi di cose. Per esempio, è una buona notizia che Celentano parli col Papa? Non lo so, amici ascoltatori, non lasciarci cadere. Celentano risponde al Papa sul Corriere della Sera sulla questione del Padre Nostro e sulla famosa frase sbagliata. La chiudiamo qua, per chi fosse interessato se la va a leggere. Invece una bella intervista su Il Giorno di un caso di cui si è già parlato, il chirurgo più forte della paralisi opera su una carrozzina verticale, era un medico, ha fatto un bruttissimo incidente, è stato portato al pronto soccorso, quello lo stesso nel quale lavorava lui, sì, solo dall'altra parte, e adesso opera con l'esoscheletro. E però in realtà, insomma, l'intervista è anche divertente, lui è sicuramente una persona di spirito, gli viene anche chiesto che cosa dicono i pazienti quando la vedono pronta a operare ma con l'armatura, perché effettivamente uno dice ma chi è che sta più male, e poi belle parole anche sui suoi figli, i quali in maniera molto ironica, quando si arrabbia, minacciano di rompere la carrozzina al padre. Allora, un'altra bella storia è questa, ce la ricorda il Corriere della Sera, la prima donna regista afghana che porta un film agli Oscar, schiaffo di Roya al patriarcato, è la prima regista donna afghana, il suo film si chiama non lo so come si chiama, dov'è scritto, vediamo che lo trovo, a Kabul è notte fonda, quando non trovo il titolo, non importa, ma insomma lei parteciperà agli Oscar, il suo film, eccolo, Ariana. Lo troverete facilmente perché appunto no, non ci sono è il nome del cinema, scusa, il nome del cinema afghane. No, infatti, che è stato proiettato il film a Kabul, al cinema Ariana, per 7 giorni. Poi le proiezioni sono state sospese per problemi di sicurezza. Insomma, non è semplice essere una donna regista in Afghanistan. Lei però addirittura punta agli Oscar. Complimenti. E invece una notizia che più che una buona notizia è una notizia utile che non sapevo. Spesso guardiamo in televisione, in telefilm, in CSI, questi posti dove tutti chiamano il 911, il 911, sì, l'emergenza, il numero dell'emergenza, e non sapevo che in Lombardia se digiti il 911 vieni automaticamente ridirezionato al nostro numero dell'emergenza, il 112. Mi sembra molto utile, ovviamente è un sistema che è utile per nel caso che ci fossero americani in vacanza o di passaggio per la Lombardia, ma lo è utile anche perché capita a moltissimi italiani che ormai dopo il lavaggio del cervello fatto guardando le serie americane distinto fanno il 911 invece che il nostro 112. Adesso andiamo a sentire qual è il comune ribelle della settimana, anche qua buone idee, la rivolta delle buone idee. Sentiamo Marco Boschini dove ci porta questa settimana. Il comune ribelle della settimana è Capannori, in provincia di Lucca. In vista delle festività natalizie, uno dei comuni più virtuosi e innovativi d'Italia se n'è inventata un'altra delle sue, il Natale a spreco zero. Insieme al centro di ricerca Rifiuti Zero, il comune ha lanciato questa campagna invitando tutti i cittadini, in un periodo in cui si assiste a un notevole aumento dei consumi, a non acquistare prodotti inutili, imballaggi non riciclabili o in plastica a usa e getta. L'obiettivo è anche quello di promuovere l'esperienza degli empori del riuso solidale, dove si possono trovare oggetti per i regali natalizi, aiutando l'ambiente e allo stesso tempo garantendo il sostegno ad un servizio che dà lavoro a diverse persone. Natale a spreco zero verrà presentato in un'assemblea pubblica lunedì prossimo. Un vecchio proverbio indiano dice che non ereditiamo la terra dei nostri antenati, ma la prendiamo in prestito dai nostri figli. Riusare le cose, limitare gli sprechi è il modo giusto per tenerlo a mente. Al ritorno dopo il giornale radio i vostri fioretti imbarazzanti come l'allenatore dello Shakhtar che si è presentato vestito da Zorro dopo aver passato il turno di Champions, perché così aveva promesso, così aveva promesso, e poi argomenti per il cenone di Natale. Dobbiamo prepararci ad arginare lo zio che vuole tornare al ventennio. Quali argomenti possiamo contrapporre a questa deriva nazifascista? E allora noi ve lo chiediamo all'800 24 00 24 dopo. Si può fare. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finfarro, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, no, no, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Ma la sensazione di finferlo! Il segnale orario vi è offerto da Unica e Italiana Assicurazioni, società di Reale Group. De Giro, il trading online a commissioni basse senza precedenti. Visita degiro.it. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Yeah, you got what you want. Slave to that dollar bill. To get you some, and damn, you're hungry still. Yeah, you think you a king, whole world's yours to take. But we got something you can't buy, love something you make. That's how we roll, that's how we roll. Can't sell your soul. Diamonds, diamonds and gold. Allora, che cosa è successo nel mondo questa settimana? Quale si può fare? Vi possiamo raccontare. Allora, in Kentucky puoi pagare le multe per il parcheggio e il parchimetro con il cibo per i più poveri della contea, della città, insomma, perché il programma si chiama Food and for Fines e torna per il secondo anno. Fino al 15 dicembre gli americani di quella regione che hanno sforato l'orario di sosta col parchimetro e devono pagare la sanzione possono farlo con una multa solidale, cioè proprio consegnando barattoli, soprattutto, sai che gli americani mangiano tutto in scatola, scatole piene di cibo, insomma, pare che sia così. Mi sembra una leggenda, ma è una leggenda metropolitana. Ma scusa, ma com'è il cambio? Com'è il cambio dollaro barattolo? Nel Chi senso, per ogni dollaro un barattolo di fagioli? Dobbiamo intervistare il governatore del Kentucky, insomma, per chi paga, però è un modo per, forse anche per risparmiare, chissà, per chi invece ha bisogno un po' di solidarietà in più. Anche perché ricordiamo che gli Stati Uniti solitamente parliamo sempre del loro lato economico, ma hanno milioni e milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà. Un'altra notizia estera: Australia, il Parlamento approva la legge sui matrimoni gay. Come vi avevamo raccontato, a novembre è stato fatto un referendum, però non vincolante, assolutamente non vincolante, dove aveva vinto il sì per il 62%, e adesso invece, dopo il Senato, anche la Camera dei rappresentanti ha votato a favore della legge. Fa il paio con la notizia che arriva dall'Austria, che apre alle nozze gay, dove addirittura è stato messo in la scelta è della Corte Costituzionale, dove forse nell'unico modo possibile è stato detto il matrimonio è matrimonio ed è uguale per tutti. Forse è l'unico modo per cui anche le leggi sulle unioni civili o su altri tipi di matrimonio, altre tipi di unione, è l'unico modo, il matrimonio egualitario, per cui non sia discriminante proprio il momento in cui si dà un diritto. E allora, tra le cose, queste sono alcune delle cose che sono successe nel mondo. È successo anche che l'allenatore dello Shakhtar Donetsk, dopo aver superato il turno di Champions, si è presentato vestito da Zorro, come aveva promesso, in conferenza stampa proprio per celebrare questo passaggio di turno della sua squadra. E allora noi oggi vi chiediamo all'800 24 00 24: e voi, quella volta che avete fatto una promessa imbarazzante, se passo l'esame all'università mi spoglio o cose di questo genere, e soprattutto quando poi vi siete spogliati. Noi prima li abbiamo chiamati anche Fioretti, ci fanno notare con un SMS dicendo che il fioretto è un piccolo sacrificio che si fa di solito nel mese di maggio in onore della Madonna, essendo effettivamente noi maggio non vogliamo tirare in ballo, ma io però non lo sapevo, Madonna, ma io pensavo che fioretto in realtà viene da lì, l'etimologia è questa, ma fioretto pensavo che fosse generalizzato, non solamente nei confronti della Madonna e non solamente nel mese di maggio. Quindi, se abbiamo offeso qualcuno, ovviamente chiediamo scusa. Certo, parliamo di promesse, penso se che, preferite. Penso che anche da dizionario. Adesso lo chiederemo la prossima volta che parliamo con quelli della Crusca, se fioretto è stato allargato. 800 24 00 24 valgono anche le promesse non mantenute, clamorose, tipo se perdo vado in Africa. Che non so chi era questo, Veltroni, Renzi. No, Renzi non ha detto l'Africa, ha detto lascio la politica. Forse il ragazzo che abbiamo scoperto che dopo un anno ha finalmente chiamato a casa dicendo che è stato rapito, non so, non l'ho seguita la vicenda, quindi spero di non aver detto delle cose spiacevoli. E poi sempre all'800 24 00 24, cari ascoltatori, siccome tra poco è Natale, prepariamoci alle classiche discussioni durante i cenoni col parente di tendenze fascisteggianti, perché al di là della questione onda nera che sta montando, verità o racconto mediatico, dice qualcuno, però sicuramente c'è sempre il parente che dice si stava meglio quando si stava peggio, o che invoca l'uomo forte. Allora noi abbiamo bisogno di argomenti da altrettanto forti, altrettanto forti da dire al nostro vecchio zio che incita al ritorno ai metodi del ventennio. 800 24 00 24. Cominciamo aspetta che vado sulla schermata degli ascoltatori che non la trovo più. Andrea dalla provincia di Pistoia, vai, buongiorno. Buongiorno dalla Roccaforte Rossa. Così cominciamo, partiamo subito così. L'ex Roccaforte Rossa, perché ormai hai visto che coi collegi uninominali cambia tutto, Andrea? Infatti è stato brindato sia nel mio paese a Montale che a Pistoia, è stato brindato da varie parti. Io vi dico solamente questo: mio nonno è nato nel 1896 e è morto nel 1990, mio padre è del 1931, non hanno mai votato fascista, però come dicono, come si stava allora, ora non siamo stati, noi siamo sette fratelli, sette, sì. Io sono il primo di sette fratelli. Quanti anni c'hai tu, Andrea, giusto per capire di che generazione stiamo parlando? 40 anni, 39 anni, sì. e mio padre ne ha 86, però... Andava a scuola, gli passavano i libri, andava alle vacanze, gli mandavano chi non ne aveva, gli mangiavano qualsiasi cosa che c'era. Le colonie. Colonie, quella. Poi andavano il sabato tutti al saluto, per l'amor di Dio. Hanno fatto la guerra, per l'amor di Dio. Ma però queste due cose, o queste 100 cose che stiamo elencando, vanno un po' insieme, nel senso che forse è anche lo stato assistenzialista che ti dà addirittura anche le colonie, che però poi è lo stesso stato che ti obbliga a fare il saluto, nel senso che senza una cosa non hai l'altra. Non è che si possono avere le colonie, però io non saluto nessuno. Noi che siamo sette fratelli, il pulmino, l'asilo, il coso, l'abbiamo pagato tutti, l'acqua a casa l'abbiamo pagata più cara perché ne consumavamo di più con i nostri cari amici comunisti, l'abbiamo pagata come di lusso noi che se eravamo in tanti perché ne consumavamo di più, a noi non c'è stato mai passato... Se ne consumavate di più è giusto pagarla di più. Vabbè, ho capito, Andrea, che non sei l'ascoltatore giusto per darci un consiglio trovare gli argomenti contro lo zio che ha nostalgia del ventennio, perché tu sei esattamente quello zio lì. Però bisogna anche dire che i tuoi genitori avevano 20 anni durante il fascismo e forse hanno nostalgia, tuo padre, anche di quello, dei suoi 20 anni. Questo è un classico, vale per tutti, neri e rossi. Andrea, grazie, buona giornata. Stefano dalla provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, stavo buongiorno. Ascoltando quello che parlava per lo zio. Io parlo per me stesso, che ho 82 anni e mezzo. Sì. La nostalgia del passato non deve esserci. C'è un ricordo indelebile del passato, però brutto o bello che sia, ma quelli i nostalgici che parlano come... parlava questo qui prima di me, sì. Ma che nostalgia ci avevano questi qua del pane che non si trovava, la pancia vuota, la bocca asciutta, che non potevano mangiare, e c'era i nostalgici sono quelli che non hanno patito queste cose. I nostalgici sono quelli che hanno sempre avuto la pancia piena a sbaffo di chi non aveva nemmeno un pezzo di pane. Quindi però non c'è stato quello che dice, ma no. La nostalgia deve essere un'altra, deve essere largo ai giovani, e i giovani con serietà nel cervello, non quei quattro disgraziati che si incapucciano per non farsi vedere. Ma come sarebbe di la mia faccia, se voglio la nostalgia della mia faccia, me la faccio vedere agli altri. Stefano, non mi interessa, 82 anni, 82 anni, complimenti per la lucidità alle 8:25 di mattina. Quindi, volendo sintetizzare, Stefano, il tuo argomento è: non è vero che si stava meglio, in sostanza, perché c'era tanta gente che non stava per niente bene all'epoca del ventennio, per è esempio. Questo. Dopo è arrivato un altro ventennio. Sì. Però qualcuno potrebbe dire che neanche oggi si sta tanto bene. Purtroppo è stato peggio ancora dell'altro. Stiamo parlando di Berlusconi, suppongo. Esatto. Però c'è anche gente che direi non a torto, dice che adesso si sta parecchio male, quindi non è che si stia tanto bene in questo momento. Non si sta tanto bene, ma lei confronto agli anni miei non c'era in quel periodo. No, infatti ascolto lei, ci mancherebbe altro. Pure i miei figli, quando gli parlavo, dicevano: ma come facevate? Come facevamo? Come facevamo? È una storia lunga. Va bene, Stefano, grazie per averci chiamato, e sicuramente Stefano ingaggerà qualche discussione con qualche vecchio zio, ma forse in questo caso più che il vecchio zio sarà il giovane nipote, che, come ci sta dicendo Stefano, non conoscendo forse a fondo come è stato quel periodo, si ha nostalgia solo delle parti buone, i treni in orario e l'assistenza sociale, poi ci si dimentica particolari tipo, che so, una guerra mondiale, i campi le di concentramento, cose di questo genere. Infatti è quello, insomma, che dicevamo, contano meno dell'assistenza. Dicevamo prima che il fatto che una cosa che non sono scindibili le due cose, ovviamente. Danilo dalla provincia di Varese, buongiorno e benvenuto. Stiamo tirando in lungo con gli ascoltatori, perché dovevamo avere il sindaco di Predappio, a questo punto lo dico, per il museo sulle dittature e i totalitarismi, che è una proposta che diventerà realtà tra qualche giorno, ma non ci risponde al telefono. Se qualcuno... Speriamo che non sia successo niente di brutto. No, perché è una proposta anche un po' contestata e un si può fare. Anche questo, se qualcuno è lì nei pressi del sindaco di Predappio, gli dia una gomitata, dice: sindaco, guarda che... Sveglia! A Radio 24 ti aspettano. Danilo, vai! Ciao, se sono... Non sentiamo. Sì, diciamo che, perso, che abbiamo avuto le telefonate migliori, sì, ho perso, Danilo. Ho perso una scommessa, parlo di 30 anni fa, quindi lo racconto. Sì. Allora facciamo così, Danilo, fermati un attimo perché non ti sentiamo praticamente per niente, non vogliamo perderci la tua scommessa persa e la promessa che probabilmente hai dovuto mantenere, che cosa che vi chiediamo oggi all'800 24 00 24 in palio. Mettiamo i biglietti della mostra di Klimt allo splendido Mudec di Milano, però all'800 24 00 24 torniamo tra poco, facciamo una pausa e vediamo se Danilo nel frattempo riusciamo a renderlo comprensibile ai più. Si può fare. Allora, la notizia è questa: è stato presentato a Predappio il centro studio museo sulle dittature e i totalitarismi, una vecchia idea del sindaco di Predappio che sta diventando realtà, un centro di documentazione, quindi con documenti, testimonianze ufficiali, immagini per raccontare la storia vera, non solo del fascismo, perché Predappio è luogo di nascita di Mussolini, ogni anno ci sono dei pellegrinaggi, c'è gente che va proprio per questo, ma di fronte appunto anche a queste manifestazioni spesso di carattere estremo, il sindaco ha pensato: facciamo un luogo di chiarezza, di testimonianza, no? Di verità storica. Allora ci è sembrato un si può fare proprio in questo momento interessante, no? Certo, in cui certo. Si parla e di... tra l'altro anche in un luogo con un significato, perché la mostra sarà allestita fino al 5 novembre del 2018 nella casa natale di Mussolini, di via Varano Costa, quindi dove è nato e poi ovviamente divenne casa del fascio. Un po' di conoscenza però, della storia, insomma, non può che farci bene. No, no? Molto, anche perché come ben sappiamo Predappio è anche meta di pellegrinaggi, quindi secondo me che proprio in quel luogo lì invece si parli in generale dei totalitarismi, anche non solo del fascismo, sembra importante. Però non tutti la pensano così, perché in realtà l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, ha dichiarato rischia di celebrare il fascismo, un po' forse anche un po' scottati dal fatto che non sia stata coinvolto l'ANPI in nessun modo in questo museo. La stessa Carla Nespolo, che è la nuova presidente, come abbiamo anche detto, perché è la prima donna presidente dell'ANPI, ha detto che loro sono contrari perché pensano che questo museo potrebbe essere celebrativo della dittatura fascista. Noi vi chiediamo, no, cari per questo volevamo parlare col sindaco. Noi vi chiediamo, cari ascoltatori, si può fare secondo voi? Cioè, può diventare questo museo un centro dove portare, per esempio, anche i bambini delle scolaresche? Può aiutarci a diventare farci diventare un popolo più maturo e più moderno e sinceramente democratico? 800 24 00 24 e col chi abbiamo? Avevamo Danilo dalla provincia di Varese, però per parlarci del suo fioretto, della sua promessa, forse, vero Danilo? Sì, di una scommessa praticamente persa. Vai. La scommessa persa, parlo di 30 anni fa, quindi non adesso lo posso anche raccontare, perché tanto in una palestra c'era la festa delle donne e praticamente ho perso una scommessa in palestra e ho dovuto fare lo strip per le donne sposate che non sarebbero uscite perché c'erano i bambini, tutto qua. No, aspetta un attimo, aspetta. Spiega meglio, hai fatto lo strip in palestra? Perché ho perso la scommessa, sì. Ho fatto lo strip in palestra per le donne sposate che alla festa della donna non sarebbero andate via, non sarebbero uscite proprio perché avevano i bambini. E quindi l'unica cosa che hanno voluto che fosse integrale, tutto qua. Ma sei, diciamo, un abitué, Danilo? No, no, parlo di una roba di 30 anni fa. È stata una scommessa persa e ci siamo fatti quattro ghignate. Ma su che cos'era la scommessa? Era sulla scommessa su un esercizio fisico tra me e una donna, lei diceva che avrebbe vinto, infatti poi ha vinto. Ah, e io ti ha fregato. Quindi è giusto. Ho pagato dazio. Esatto, e nel senso che se fosse andata nell'altro modo tu volevi lo spogliarello della donna, suppongo. No, è un altro discorso che è meglio evitare, però è un discorso. Allora evitiamo. Un discorso forse all'uscire addirittura rossissimo. Perché mi sembra giusto che per contrappasso invece sia stato costretto Danilo a fare lo spogliarello integrale. Parliamo di 30 anni fa e ci siamo fatti un sacco di risate. Gli spogliarelli sono uguali anche 30 anni fa, non è un problema. Grazie Danilo, allora chissà che fisico che c'avevi adesso è meglio evitare. 800 24 00 24, le vostre promesse imbarazzanti che avete dovuto mantenere. Arrivò in Italia da profugo albanese, l'artista Milot adesso dona un'opera al paese che lo accolse e che gli dà la cittadinanza onoraria. È con noi Alfred Mirasci, credo di aver pronunciato bene, spero, soprattutto in arte. Milot, buongiorno. Buongiorno, perfetto, va benissimo. Buongiorno, siamo molto contenti di averla con noi. Dobbiamo essere all'altezza perché voi albanesi parlate l'italiano benissimo in genere, cioè proprio... Grazie. Alla grande. Adesso sono a Firenze in piazza Duomo perché sto portando il bambino a scuola calcio stamattina. Benissimo. Perché vivi a Firenze adesso tu? Sì, da 10 anni. Prima abitavo a Milano, vicino a voi, perché ho fatto l'Accademia di Brera. Certo, questo è un pezzo della tua storia. La storia che parte nel 1991 a Brindisi, erano gli anni degli sbarchi, dei barconi pieni di albanesi, immagini incredibili. Che ben ricordiamo. E tu avevi, quanti anni avevi, Alfred? 19 anni, quasi 20. 19. Stavo facendo liceo artistico a Durazzo, sì. E ho visto tanti miei connazionali che salivano sulle navi. E sono salito anche io per gioco, però dopo, visto che sono al mare, mi sono sbarcato al Brindisi dopo un giorno. E che ricordo hai di quel viaggio? È un ricordo che questo non lo augura nessun popolo al mondo, perché sono andati via tanti ragazzi giovani, la forza lavorativa di un paese, intellettuali, tanti scrittori, tanti poeti, tanti artisti. L'Albania era in ginocchio in quel tempo lì. È molto importante ricordarlo, perché anche in questi giorni in cui vediamo sbarchi continui, come giustamente ci stai ricordando, scappano i poeti, scappano la forza lavoro, scappano i giovani, scappano le teste, non è che scappano come andò nello stesso modo identico, perché anche nel 91 iniziarono molti giornali a parlare parlare di invasione, a parlare degli albanesi che erano cattivi, che erano violenti, vero, un sacco di queste, esatto, e quindi è molto bello ricordare, soprattutto in questo momento dove tu stai regalando un'opera importante alla città che ti ha accolto, perché proprio anche allora si disse gli albanesi, visto che sono tanti, dividiamoli nei vari paesi, e quindi arrivaste anche in dei paesi piccolini, giusto? Finisti a Cervinara. Che paese è Cervinara? Cervinara è un piccolo paese, mi ricordo il mio paese nativo, Milot, in Albania. Sì. Che poi è il nome che hai preso come nome d'arte, d'artista, giusto? Milot. Sì, l'ho fatto come sfida a me stesso, perché se ti ricordi a Milano nel 90 era voto alla Lega, un albanese in meno, certo. E il nome proprio Milot, la sfida che anche in Albania c'è degli artisti, dei intellettuali. Cosa trovasti però a Cervinara? Cosa trovasti, Milot? Ma a Cervinara ho trovato un paese stupendo, tutti ospitali, bravissima gente, sai, vai al lavoro, torni a sera a casa, trovi il piatto di pasta pronto, le salsicce, un paese fantastico. E tu ti mettessi a, cioè, trovassi ospitalità in questa famiglia che aveva bisogno di qualcuno che tagliasse la legna, è vero? E tu lo sapevi fare? No, era una famiglia dei falegnami, sì. Io intagliavo in legno. Intagliavi, perché poi tu sei... Sì. Tipo portoni per le chiese, portoni per le ville. Era un bel lavoro, perché avevo fatto il liceo artistico e almeno quel lavoro lo sapevo fare, perché non sapevo parlare, lui mi dava il disegno e io lo facevo. Avremmo dei portoni straordinari se fossi rimasto a scolpire i portoni, però siamo felicissimi che invece hai iniziato una brillante carriera da artista, hai fatto Brera a Milano, giustamente come ricordavi, e adesso fai mostre in tutto il mondo, in Cina... Giusto? Ma con grandi sacrifici ho cominciato, sai, volevo fare l'Accademia di Brera, perché venivo da una famiglia in Albania, di famiglia, sì, di Kulak, non so se lo conoscete. Una famiglia di cosa? Di cosa? Ripeti? Kulak, si chiama proprietari di terreno, che sì. I nonni, avevano animali, erano lavoratori, non è che sfruttavano qualcuno, ma il sistema comunista era che queste famiglie qua non avevano il diritto di fare l'università. Eravamo emarginati in società. Ma scusami, stiamo parlando, sì, di Gulag. Sì, Gulag, sì, però da noi si chiama Kulak. No, perdonami, perché abbiamo avuto un momento in cui non eravamo sicurissimi. No, certo, diciamo che il mondo dei Gulag, nel momento che hai citato il mondo sovietico, c'è, cioè, molto preciso, stesso, e sappiamo stesso anche le cose terribili che succedevano. Facciamo, Milot, scusa, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco dopo il traffico. Ascoltatori all'800 24 0024, tra poco se volete. Ecco noi Alfred Mirashi, in arte Milot, è un artista albanese, ma lui arrivò in Italia a 19 anni, il 6 marzo del 1991, sbarcò a Brindisi, salpato da Durazzo, e poi ottenne ospitalità a Cervinara in Irpinia, dove venne accolto, poi ha frequentato l'Accademia di Brera, a 24 anni adesso è diventato un artista di fama internazionale e donerà a Cervinara, che allora lo accolse, e di lì cominciò il suo cammino, la sua ripartenza, una scultura gigante che hai fatto insieme a alcuni operai anche della zona. Che cos'è Milot? Questa è una scultura monumentale di quasi 20 metri, ma può darsi anche più di 20 metri, che l'ho realizzato a Cervinara con gli artigiani della zona, bravissimi ragazzi, davvero molto lavoratori, anche una abiti. una chiave gigante, una chiave in acciaio corte, non so se lo conosci, un acciaio che piano piano si arrugginisce, prende il colore da arancione fino a diventare un marrone scuro. Mm-hmm. anni. Ammetto l'ignoranza e non lo conosco, però ho visto delle immagini di questa chiave veramente gigantesca, stiamo parlando di 40 tonnellate e anche il particolare che stavi raccontando adesso, che in realtà tutti i cittadini di Cervinara, che ricordiamo è una cittadina con meno di 10.000 abitanti, hanno partecipato ai lavori che sono durati un mese per una specie di festa, costruire, insomma, esatto, questa opera monumentale. Io ci tengo molto a sottolineare questo fatto che appunto al paesino che ti ha accolto hai regalato quest'opera che ha anche proprio un valore, senza stare a girarci tanto intorno, un valore anche economico, un valore che potrebbe essere anche di indotto turistico, e in questo momento dove moltissimi sindaci in realtà si rifiutano di accogliere una parte dei migranti, vorrei dire che forse si stanno perdendo qualcosa, perché poi qualcuno diventa un artista e ti regala una chiave che vale molto di più di quello che ti è stato dato, diciamo, in termini economici. Quindi è molto bello. Senti, Alfred, voglio chiederti un'ultima cosa. Voglio chiederti cosa ti ha insegnato questo periodo. Cioè, sono passati 20 anni, di più, hai avuto momenti neri. Adesso sei un artista di fama internazionale. C'era molta diffidenza degli italiani nei confronti degli albanesi, e oggi non c'è più. Questa diffidenza si è spostata magari su altre cose. Cosa hai imparato? Cosa hai imparato da questi 20 anni? Che con la tenacia e con grandi sacrifici, perché io ho conosciuto tante famiglie proprio buone in Italia. Per dire, una famiglia proprio di Cervinara mi ha fatto la mostra, mi ha aiutato a fare la mostra a Napoli al Maschio Angioino, non so se lo conosci, il castello, sì, Maschio Angioino, sì, certo. Lì ho fatto la mostra, una famiglia bianco, così quando tu lavori dai da fare, proprio ti arriva la chiave storta, sai? Il lavoro, darsi da fare, impegnarsi, i risultati poi arriveranno, e per te sono arrivati. Milot, noi ti ringraziamo, chiudiamo qua, perché a sorpresa forse abbiamo, intanto in bocca al lupo Milot per tutto, abbiamo il sindaco di Predappio, Giorgio Frassinetti, con una mezz'oretta di ritardo. Sindaco, buongiorno. Buongiorno, scusate. Eccolo qua. Vabbè, scuse accettate naturalmente, non c'è problema. Allora, ci parla però a questo punto in pochissimi secondi, forse un paio di minuti, del progetto di museo che sta per diventare realtà, il museo sulle dittature e i totalitarismi a Predappio, città natale di Mussolini. Questa è un'idea che ci è venuta tanti anni fa, io sono sindaco da 8 anni, da un grande palazzo abbandonato, in mezzo al paese, il palazzo del fascio dell'ospitalità, era dello Stato, stava scadendo a persi, 2.400 metri quadrati. E allora, vedendo Predappio che è invasa, diciamo, 3 volte l'anno da manifestazioni così, insomma, mussoliniane, sono questi negozi dove erano mussolini, io voglio strappare. Sindaco, io lo devo dire, non si sente bene la linea, sì. Non so se lei in un punto... dove... No, sono qui... Ecco. Vediamo un po' se riusciamo, sì, prego, finisca pure. Il tentativo è quello di strappare Predappio dalle mani di quello che possiamo chiamare i mussoliniani, i neofascisti, insomma, da quelli che vengono a Predappio e pensano che Predappio sia la loro. Predappio non è né la loro né degli altri, Predappio è di tutti, e quindi credo che Predappio deve essere il luogo, il punto, insieme ad altri luoghi in Europa, che è in grado di restituire una topografia del Novecento. Ma lei pensa che possa dare un contributo a questo museo sulle dittature, in un momento in cui si parla molto di Onda Nera, di ci sono stati degli episodi, inutile che li ricordi tutti, Como, eccetera, di Skinheads, eccetera? Il mio non è un museo, il mio sarà un centro studi con annesso esposizione permanente, sì. È l'unica strada. Se noi pensiamo di combattere questi fenomeni solamente reprimendoli, non abbiamo capito niente. L'unica strada è la cultura, perché noi abbiamo perso 30 anni. Perché 15 anni fa non c'erano questi fenomeni, o comunque si erano limitati? Mi dice un'ultima cosa, sindaco, scusi, devo fare tutto in fretta perché naturalmente abbiamo perso un po' di tempo. Cosa ci sarà nel museo che aprirà, quando, cosa si potrà allora, vedere? Allora, no, noi oggi... abbiamo la mostra sul museo, cioè sì, il contenuto, perché ci sono state fatte troppe chiacchiere e troppe strumentalizzazioni. Non cosa si vede in questa mostra? Cosa si vede? Non ci sono cimeli, sarà un museo che ci sarà fatto come un girone dantesco, a forma di pozzo. Si partirà dall'alto, dal quarto piano, e si racconterà dalla fine della prima guerra mondiale fino andando avanti tutto quello che è successo in quei vent'anni, però chiaramente sarà multimediale. Poi mano a mano che si va giù, sì, come in un posto, a partire dal 35, quindi il colonialismo, e poi dopo giù con la guerra, saranno lo scantinato, anche perché ci deve essere la forma oppressiva della guerra. Quindi sindaco Frassinetti, io devo chiudere perché abbiamo esaurito il tempo. La ringrazio, il sindaco di Predappio. Grazie. Il progetto di museo delle dittature che diventa realtà, adesso c'è la mostra che spiega quello che sarà poi il museo vero e proprio. Agli ascoltatori in onda che volevano intervenire anche su questo, dico: chiamate domani che noi torniamo 8:10 fino alle 10 con Si può fare. Che dire, un programma che noi realizziamo insieme a voi, cari ascoltatori, quindi chiediamo la vostra pazienza. Oggi c'è stato un po' di scaletta rovesciata, il bello della diretta, il bello della radio, veramente. Che dire, dobbiamo dire anche l'ascoltatore che vince, diciamo domani a questo punto. Vi teniamo, certo, in suspense. Nel frattempo il cervellone della redazione di Si può fare elabora la risposta. Domani con il gioco e col personaggio naturalmente torniamo con Si può fare. Grazie ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Miriam Lucchetti, Andrea Roccabella in regia oggi. Ciao da Alessio Maurizi. E ciao da Carlo Gabardini, buon sabato. E a chi ci ascolta in podcast.